La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Messaggio nella bottiglia in arrivo per la guardiana del faro. Cara Barbara, ti scrivo in un momento in cui vorrei essere in un altro posto, in un altro tempo e con un po' più di coraggio. Sono fidanzata da 3 anni con M, 32 anni. Lui è un ragazzo eccezionale. Sono stata davvero fortunata a incontrarlo. Ma le sue attenzioni, che mi piacevano molto all'inizio, ora le voglio per abitudine. È una storia bella, ma che non si rinnova. A volte mi tocca e mi infastidisce, a volte mi accarezza e vorrei picchiarlo. Ricordo che un tempo non vedevo l'ora di uscire dal lavoro per correre da lui. Ora lo tradisco con il mio collega di lavoro, con V, e lui mi è piaciuto fin da subito. Ci sa fare, mi sa far ridere. Mi sono dichiarata a lui solo la settimana scorsa ed ora abbiamo una splendida storia clandestina, la cosa più eccitante che possa esistere. Quei baci di nascosto, quegli sguardi di complicità, quelle battute che per i nostri colleghi sono semplici battute, per noi sono realtà. So che penserai che è il caso di lasciare M, vista la situazione, ma non ne sono capace. Primo perché per V è solo una storia di sesso, per me no. E poi perché partirà presto per l'altra parte del mondo. E poi perché sono comunque legata a M, gli voglio bene. Facciamo l'amore poco, ma ho bisogno di lui. Per paura di restare sola e non avere la forza di ricominciare da capo. V è il mio momento di fuga dalla realtà, quell'adrenalina, il rischio. E pensando a M, non ho neppure un senso di colpa. Sono pazza, dillo pure. 0 sensi di colpa, 24 anni. No, non credo che tu sia pazza. Ultimamente ho incontrato delle ragazze che mi hanno detto la fedeltà non mi interessa, per me non è un valore. E stanno con persone che amano. Però è un caso diverso dal tuo, perché queste ragazze hanno fatto un patto con i loro innamorati. Hanno fatto un patto che chiamerei del mistero, ovvero voglio mantenere le mie zone d'ombra e non violerò le tue. È un patto spericolato, da amanti molto maturi, ammesso che ci possa mai essere una maturità nella passione. Ma dopo tanti anni che rispondo alle lettere, io sono un po' smarrita. Perché in barba alla maggiore libertà di noi donne, tutto continua come prima. Si sta con uno e si ama un altro. Ma perché legarsi? Io sono semplice e quando, stando con una persona, mi è successo di amarne un'altra, mi pareva un sacrilegio fare l'amore con questo che non amavo più, con quella bugia di mezzo, con quell'ostacolo a darsi, perché non ti dai completamente se c'è una bugia di mezzo, e la noia disperante di un rapporto fisico non sentito. Io mi racconto poi, sai, mentre ti parlo, che quella era una perfetta fedeltà, ma forse abbellisco. Forse la fedeltà è virtuale sempre, è nel fondo di un ricordo, di un sogno, di una parola non detta. Però un conto è una suggestione fuggevole e un conto è mentire per sistema, sdoppiarsi. No, dimmelo tu come si fa. Mentire a letto, a tavola, dover nascondere una gran parte di quello che fai, presentarsi travestiti, tutto alle sue spalle. Stando attenta, lui diventa un nemico, diventa un uomo da gabbare, diventa una persona da ingannare. Attenta a non far trapelare nulla, quindi con una censura costante sui tuoi gesti, su tutto. Il tuo ragazzo non va a letto con una donna libera, anche di dirgli tutto, una donna che non ha rinunciato alla libertà di altri incontri. Lui crede di andare con la sua donna e se c'è questo equivoco, tutto il resto è un palcoscenico, è un muoversi di ombre. Tu non sei pazza, 0 sensi di colpa. Anzi, sei molto normale, fai come tutti. Fai come la maggior parte delle coppie per cui un amore clandestino è la stampella che sorregge il compromesso e sorregge anche la paura della solitudine. Ma che è un'epidemia? Ma perché avete tutti la coppite? Cioè, non sapete pensarvi altro che in coppia. Io capisco bene la paura della solitudine a 60 anni, ma a 24? Sei padrona del mondo, sei padrona del tempo, hai un lavoro. E poi c'è tanta allegria nella tua lettera, c'è un senso della gioia. A che ti serve per forza un uomo che ti annoia, un uomo che non ami, un uomo che ti dà i nervi? Dici l'abitudine. Ma poveretto, ma che è un cane? Tu non sai quanto si sta bene da soli. quanta dignità, quanta gioia, quanta possibilità di tutto dalla mattina. E non parlo di andare a chiappare gli uomini per la strada, sai. Certo, gli amori clandestini sono molto affascinanti con la loro carica di sensualità e del proibito, ma tu ti stai perdendo il tuo libero sviluppo, perché mentendo tutti i giorni tu non ti conoscerai mai bene. Il danno più che a lui lo fai al libero svolgersi della tua persona. No, senti, riscrivimi, fammi capire, no, perché io spero che qualcuno prima o poi mi illumini. Io non voglio morire senza capire perché le coppie sanno stare insieme solo se hanno una cotta per un'altra o per un altro, da vedere di nascosto. Magari, chissà, sono io che mi sono persa qualcosa. Barbara Alberti, visto che possono scrivere donne, uomini, bambini, vecchi, a qualsiasi fede sessuale appartengano, ti scrivo anch'io. Volevo solo dirti che sei una grande troia. Con amore, una tua ascoltatrice. Grazie, grazie, cara ascoltatrice. Le lettere di insulti si fanno sempre più rare. E poi specialmente come la tua, dove l'ingiuria non è articolata. Tu hai una sola parola da dirmi. Troia, basta, la dici, avrai le tue ragioni sicuramente. Ed è per questo che, vedi, raccolgo la tua con molta cura, come un'alga marina o come una perla o come un corallo bianco che sei venuto fuori dal mare, e con estrema delicatezza me la metto sulla scrivania, per paura che si sciupi, che perda quella fragranza inimitabile che ha l'insulto appena pronunciato. Avrai le tue ragioni per dirmelo. Ti saluto e ti ringrazio per avermi ridato il non frequente brivido del dissenso. La guardiana del faro. Шарманка шарлатанка, как сладко ты поешь. Шарманка шарлатанка, куда меня зовешь? Шагаю еле-еле. Adesso leggo un mio racconto sulla maternità, sui ricatti che spesso in famiglia prendono il posto dell'amore. È un racconto cattivo, si intitola La mamma del bambino malaticcio. Se c'è qualcuno impressionabile all'ascolto, è meglio se spegne la radio o cambia stazione. Ah, mi soffermo un istante su questa parola stazione, questa parola che attiene alla radio, che la apparenta alla bicicletta, alla stufa legna, al pane fatto in casa, ai vecchi treni e anche ai trenini di legno dei bambini del tempo che fu. Questo racconto mi è stato ispirato da una famiglia che conoscevo allora e che era una fabbrica del ricatto. I genitori erano separati, il bambino stava con la madre, era sempre malato. Non gli veniva mai niente di serio, ma tanti piccoli disturbi che non finivano mai. E tenevano la madre sempre attaccata a lui. Tanto che lei non si curava più, non aveva amicizie, all'epoca aveva 32 anni, pareva una strega. Il padre, di mestiere marittimo, tornava ogni tanto di rado e si faceva vivo solo per farle delle scenate come se lei fosse colpevole di tutti i mali del figlio. In compenso però veniva sempre la suocera, diceva a trovare il nipote, in verità per sgridare anche lei la madre, per darle il resto che il marito non le aveva dato. La suocera si comportava come un generale che passa in rassegna le truppe e trattava la nuora come un soldato asino e incorreggibile. Il ragazzino era molto intelligente e si adeguava alla commedia degli adulti, e più di una volta a me diede l'impressione che stava esagerando i suoi mali. In quella casa erano antipatici tutti, pure la madre, però lei mi faceva pena. E poi ad un tratto ci fu un colpo di scena. La madre si ammalò, e molto gravemente. Sembrava dovesse morire. Lottò con la morte per un anno, poi si riprese. Intanto il bambino naturalmente era andato a stare con la nonna. La madre torna a trovarli dopo che si è uscita da questa malattia e li trova tutti in grandissima forma. La suocera era raggiante perché finalmente era riuscita a rapire il nipote. Era tutta ringiovanita, adesso che poteva fare la mamma, no? Il bambino scoppiava di salute. Non gli è mai più venuta una linea di febbre. E arriva la madre e tutti la trattano come un'estranea, come se quella malattia fosse stata un'astuzia della natura o della psiche, vai a sapere, perché si ricostituisse il nucleo originario. Il marito era tornato con la sua vera moglie, la mamma, e il figlio coronava la loro unione. Il bambino era così odioso con lei, più di prima, e la madre non volle insistere. Si affidò al tempo, ed ebbe ragione, perché il figlio tornò a lei qualche anno più tardi. Oh, di tutto questo nel racconto non c'è quasi niente. E l'unico tema che ho preso è quel filo bavoso di ricatto su cui spesso si fonda il rapporto madre-figlio. Questo racconto è uscito in un libro che si chiamava Fulmini, quando ero giovane, quando ero una matta manifesta, quando ancora non avevo imparato a difendermi dalla prima bordata dell'ostilità altrui, cioè almeno non essere antipatica subito, almeno che non capiscano proprio a colpo d'occhio che tu sei quello che viaggia senza biglietto, il suonatore senza licenza, il pazzo sfuggito agli infermieri, quello che non ride mai quando dovrebbe e poi all'improvviso chissà perché. Adesso sono diventata molto più prudente. Da quando sono invecchiata mi vesto da signora, così ti trattano bene tutti, negli alberghi, nei negozi, per la strada. Allora no, sfidavo i controllori, mi divertivo, ero tanto esibizionista, ero tanto teatrale. E mi piaceva fare la spaventosa. Ed era anche come un'occulta e maldestra prova a cui sottoponevo gli altri per essere amata. Come, eccomi, mi vorrei bene lo stesso? No? Peccato, o così o niente. E devo dire che ci voleva un grande senso dell'umorismo per volermi bene allora. Però qualcuno l'ha avuto. E c'era questa foto in copertina. Se Gloria mi assiste lo mettiamo anche su Facebook perché è interessante. Allora, c'è una pazza, una chioma selvaggia. Ma no selvaggia, sensuale, attraente, non so come a Feffe, no? Oppure quella nuvola rossa che ha in testa Paolo Saluzzi. No, proprio arruffata, una strega che non si pettina. E addosso un cappottone da maschio, enorme, il doppio di me, praticamente una capanna. Con le maniche rimboccate, due bottoni che pendono, proprio sul punto di staccarsi, camicia da uomo, cravatta, sigaretta in mano. E questo è niente, quello che conta è la faccia. Esplodo in una risata sfrenata. Che ci sarà pure dell'allegria, ci sarà il gioco, ma è una risata da iena, vengono fuori certi denti. Però io con quel cappotto mi sentivo Humphrey Bogart. Questo cappotto l'avevo trovato in treno, venivo da Roma a Milano, facevo un gran freddo, ero senza un soldo e a Milano avevo dovuto scegliere tra comprarmi il cappotto e fare il biglietto di ritorno. Naturalmente ho scelto di tornare a casa. Arrivo a Roma, la mia carrozza si era svuotata, già a Bologna, alzo gli occhi e vedo questo meraviglioso cappotto sulla reticella, lasciato chissà da chi. Ma non mi è venuto neanche in mente di portarlo agli oggetti smarriti. Anzi, a dire la verità, ci sto pensando solo adesso. Perché per me era piovuto dal cielo. Era mio, ci eravamo incontrati. Era proprio un miracolo della gioia. Certo, se questo lo facesse un altro lo troverei molto scorretto, specie se il cappotto l'avessi perso io. Ma come si fa a non essere indulgenti con sé davanti al fatto che ti ha resa così felice? E che ti ha abbracciato, ti ha coperto. Non era un cappotto, era una casa. Sono passati tanti anni, ma chissà che fine ha fatto quel cappotto. Perché degli abiti più amati si perdono le tracce, come delle persone. E poi in questa foto, come se non bastasse, per colmo di sbruffoneria, a grandezza naturale che sembra che stiamo insieme, c'è Bruno Ganz nel manifesto del film di Wim Wenders, L'amico americano, e lui sembra appoggiato proprio alla mia spalla. Ecco, dopo questa lunghissima premessa, e beh, i vecchi indulgono ai ricordi. Il racconto La mamma del bambino malaticcio si svolge qualche decina d'anni fa. La mamma del bambino malaticcio sta per uscire, è un'aspra primavera. Lea s'appunta al cappello la rondine di strass che la fa bella. Si guarda, non sa dove va, ma sa che vuole andare. Con l'emozione della bestia che raspa all'uscita della gabbia, ella va verso la porta. «Mamma!» è Leone, il bambino malaticcio. Lei si accosta alla camera, si ferma sull'orlo, cercando di tenere in ombra la sua eleganza. Ma il piccolo non sfugge, il guizzo luminoso della rondine. Leone chiude gli occhi. La madre conosce quel fremito di sofferenza nel volto del figlio. Si toglie la rondine e il cappello. Tanto che gliene importa. Non esce ormai da 2 mesi. Si sta abituando. Prima la bronchite di Leone, poi la ricaduta. Infine un secondo morbillo, rarissimo e più feroce del primo. Sempre così da quando è nato. Una malattia guarisce solo per far posto a un'altra. Lea gli è sempre vicina. Negli ultimi tempi si è dimenticata di mangiare, si è dimenticata di sé. E quando si è rivista, per caso, allo specchio ha cacciato un urlo. Non perché le molte veglie l'abbiano resa verde, no. È per il ghigno d'eccessiva bontà che le è venuto in faccia. Così appassionato da parir perfido. Instancabile ha impartito ordini, ne ha eseguiti. Ha onorato il medico di famiglia e il suo pancione che gorgoglia, entrambi temibili. Lea nutre il medico, lo vizia, lo venera come un idolo maligno. Qualche volta lo sogna di notte, che ride del piccolo leone e gli rifà il verso. Il medico, che è un semplice, e come tutti i medici ha letto Flaubert, un giorno si è sentito in diritto di prendersi con lei delle libertà. Lea, insensibile per la fatica, lì per lì non ha neanche avvertito il pancione di lui che le si espandeva sui fianchi, né l'ha sentito gorgogliare. Quando ha compreso, era tardi. Ai tributi al medico si era ormai aggiunto anche quello, irreversibile. Come può la mamma di un bambino malaticcio dir di no al medico? E se poi quello, Dio ci scampi, un giorno o l'altro, mentre cura Leone, non che possa nuocergli, ma un poco, tanto per punire la madre colpevole, l'egoista che pretenderebbe scegliere quando il suo bimbo soffre e lei, solo con l'acquiescenza di qualche istante, potrebbe, chissà, se non altro, difenderlo. Il medico diventò sempre più frettoloso nel visitare Leone. Subito dopo, in salotto, scrivendo la ricetta con una laidezza tutta paterna, fruga tra le gambe di Lea con le sue unghie di assassino disattento. Fu così che il raffreddore di Leone divenne polmonite. La madre capì che se avesse respinto il medico, questo non sarebbe accaduto. Proprio allora tornò il padre, marittimo. Egli non è cattivo col bambino. Gli manda perfino velieri nella bottiglia che battono bandiere immobili. Ma ormai da qualche anno dorme all'albergo. Va a casa a pranzo. Lea serve, timida, quel marito sconosciuto che qualche anno fa, prima che nascesse il bambino, le ha dato qualche bella starnazzata. Poi si allontanò. Fu dopo l'incidente, quando Leone ebbe l'intossicazione da medicine, che si annunciò con l'apocalisse del vomito. Il marito soffrì un'allucinazione da tempesta. La madre, al primo conato, cercò di dirottare il piccolo verso il cesso per rispetto del padre. Ma Leone non vuole. Vomitare al chiuso gli dà i nervi. Grida, infuriato, abituato a essere obbedito, scalcia, schiuma e tenta di fuggire per la casa. È circondato, lo acchiappano. Il padre gli teneva stretto il collo con riluttanza, la madre un piede. Leone cadde. Finalmente vinto, i due lo trascinarono lesti verso il water, ma ecco, come uno schizzo di petrolio appena perforato scaturì da Leone una colonna vorticosa che colpì i genitori in un pulviscolo di trapassate minestre. Padre e madre lo mollarono all'unisono e intanto si diedero a gridare «Corri, Leonora, corri!» Dalle cucine giunse la serva, armata. E a colpi di scopa, con rapide stoccate di mestolo, il piccolo fu sospinto verso il bagno e intanto tenuto a distanza, sì che pur lunghi schizzi andassero a vuoto. Ma Leone, con un balzo ammirevole, si appese al lampadario e oscillò per tutto il salotto come un divo del circo. E di lassù un irrefrenabile vomito scrosciò su mobilio e porcellane, su una tela d'autore comprata con sacrifici e sulla giacca del padre marittimo, alla quale egli tiene più che all'onore. Il padre, che aveva scelto i mercantili per non vedere gente che vomita, lasciò la casa il giorno stesso. Tra lui e la moglie non ci furono spiegazioni. Ogni parola tra loro aveva ormai una struggente sfumatura di vomito. La guardiana del faro. Stavo leggendo un mio racconto, si chiama La mamma del bambino malaticcio, ed è la storia di Lea, che è questo bambino, Leone, che sta sempre male. Il bambino abita con lei, il padre marittimo viene ogni tanto a trovarla soltanto per rimproverarla come se fosse colpa sua, e ugualmente la suocera. Un'insidia del destino. La madre vede un vecchio film americano con Kim Novak e William Holden, si commuove, si monta la testa. E se la vita fosse proprio così, come nel film Picnic, la vita di una ragazza può cambiare da un giorno all'altro. È successo il patatrac. La mamma del bambino malaticcio ha cominciato a pensare a se stessa come a una ragazza. È fatta. Ormai sarà preda del primo vagabondo che incontra, e al bambino che ci pensa. Il fatto è che la madre, in quell'aspra primavera, si sente ad un tratto così bene. Ha ricominciato a mettersi qualche bel vestito. Si pettina, che figa, le dicono per la strada. Perfino sapendo che è un bambino malaticcio, ciò che di solito tiene lontana la battuta del garzone. Lea sta sbocciando. Come una pianta malefica, questa madre si ostina a non voler prendere su di sé nessuno dei mali del figlio. Un amico che legge insinuò essere quella una spia psicosomatica della mancanza d'amore verso il figlio. Anche Leonora, la serva, senza farla così complicata, guardava con oscuro rimprovero le belle guance rosa della madre e il faccino pallido di Leone, come se la madre, invidiosa della luce, la trattenesse tutta sul proprio viso, senza lasciarne neanche un po' per suo figlio. Lea ha sofferto di ciò. Ha perfino cercato di farsi contagiare, mangiando nel piatto di lui durante la malattia infettiva, dormendo nello stesso letto, ma niente. Il mattino dopo è ancora più sana, più accesa. Il bimbo è smorto. Ma non gli succhierà il sangue la madre, ebbe a dire la suocera, per scherzo, in una delle visite col figlio marittimo. La madre è condannata a star bene. È la sua malattia, la sua colpa. E fosse almeno del tutto ignorante, beh, sarebbe solo una madre disgraziata. Ma ormai l'amico che legge le ha messo la malizia dei libri. Ormai sa. E ciò fa di lei una madre colpevole. Che il medico interessato si affanni a rassicurarla. È un medico tradizionale, lui. Non sa che il bimbo si ammala solo per attirare l'attenzione, perché avverte un'insufficienza affettiva. Da parte di chi? Non certo del marittimo, labile come la striscia azzurra del mare che Leone fissa nella sua testarda malattia. Non certo della nonna, coi suoi baffi che pungono ogni bacio come avvelenati pugnali. L'insufficiente affettiva, la sola, è la madre. Eppure si fa in quattro, si ammazza il capezzale. E allora? L'eccesso di cure smaschera il suo senso di colpa. È tutta una commedia. Notte in bianco, pulizia di vomito e purulenze, dimestichezza con pappagalli e clisteri, finzioni. Tutto ciò non è che una diabolica messa in scena dell'S, il canagliesco S della madre, che non ama. Peggio, che non ama abbastanza. Che vuole con tutto questo eroismo? Competere col bambino? Diventare protagonista al suo posto? Sfruttarlo? Dividere con lui la compassione? E chissà, se non anche i dolciumi? E come da fanciulla, quando stava perdendo la fede e si torturava le ginocchia davanti a Dio e pregava disperata perché già un po' finta, così ora Lea fa esercizi di adorazione proclamando l'amore per il piccolo Leone. Mentre egli dorme, sudaticcio e putolente, dopo un clistere di tre pinte, Lea guarda le labbra pallide ma dispettose, quel suo antipatico sorriso di malato imperioso e mormora: «Leone, bambino mio, come ti amo!» E tutto il suo conscio è squassato dal dubbio che l'inconscio, a sua insaputa, del bimbo se ne ride. Lea ormai è perseguitata dall'ossessione di mentire. Per sete di chiarezza comincia a tenere un diario della malattia di Leone. Appunto ogni cosa su un quadernino che poi viene trovato. E perfino il marittimo si indigna. «Quello sta male, scusa, ci facciamo della letteratura?» Lea, senza dirlo, comincia a sentirsi un po' infelice. I got on the lawn to hold you and keep you by my side. I got this the lawn to kiss you and keep you satisfied. Un martedì mattina si butta dalla finestra. Ma il marittimo, che entra in quell'attimo, la chiappa per un piede, la tira su come una piuma, la gonfia di botte, anche un calcio. Leone applaude con forza. Troppa per un malato. Che Leone sia un simulatore. La madre fa un bel sogno. È morta. Giace sul marciapiede dove finalmente è riuscita ad atterrare e non sente più niente. Un cane le pisce addosso e lei non sente niente. Le passa sopra un autobus e lei non sente niente. Arrivano col vento caldo gli odori della primavera e quelli sì che li sente. È questa la pace. Aspirare lentamente le stagioni senza che nessuno chiami. E dalle sue narici di morta entra un'ebbrezza che da viva non prova mai. Ma quando già l'amico che legge gongola al racconto di quei sogni interpretabili di Lea che rompono la sua annosa noia, ecco l'imprevisto, la svolta del destino. Leone è allo stremo. Leone rantola, non c'è tempo per gli arzigogoli. Lì nessuno fa più della psicologia. L'amico che legge viene messo alla porta e la madre di Leone balza incontro alla morte. È una lotta dura per la morte. Lea è invincibile perché è alla ricerca di una certezza, di un senso da dare a tutte le sue colpe. Combatte di seguito 6 giorni e 6 notti Lea, l'eroina, che tratterebbe alla pari Sigfrido se solo lo incontrasse, magari portandolo in piastro nel corridoio ove l'alito pesante della morte cerca di posarsi in faccia a Leone, ma Lea non lo permette. Nella 7ª veglia Lea sa d'avere vinto. La crisi è superata. Il bimbo apre gli occhi. Lei gli si accosta per spiare il primo soffio di vita. Lui piega il volto sul cuscino e con la rivoluzionaria sincerità dei bambini. Mamma, che alito cattivo! Con tanta violenza Lea ha scacciato il male da illudersi che la guarigione di Leone sia assoluta. E invece sbaglia. Leone è e sarà sempre un bambino malaticcio. Mentre cerca di immaginarsi come sarà questo sempre, Leone, che la vede distratta, la riporta all'ordine, lamentando che i libri della Scala d'Oro non siano ancora stati rilegati. Eppure egli l'aveva chiesto. La madre corre dal rilegatore, che sta in una via ventosa, e il vento nella corsa le fa dei capelli una arricciata corona, e al rilegatore dei baffi compatti. Questa ragazza mette allegria in tutto il corpo, appena la vede. La chiappa nel retrobottega, la fa sentire come Kim Novak e Domenica, davanti al cinema Odeon. Lea confida tutto a Leonora, che servilmente si complimenta, ma corre a fare la spia alla suocera. Domenica, davanti al cinema Odeon, la madre si veste allo specchio. Allo specchio il suo splendore accende tutte le luci del cinema Odeon. Allo specchio Lea vede per un istante la propria anima che si dibatte, impaziente di levarsi in volo. Lea si appunta alla rondine di Strass. Corre sbattendo le ali lungo il corridoio per aprire finalmente la gabbia. Teme che Leone la chiami, che Leone la fermi come ha fatto il marittimo, per un piede o con un ricatto veniale e tremendo. Mamma, basterebbe che dicesse, e lei si arresterebbe sulla porta come stregata. Lea, col cuore che batte, apre la porta. Già avverte la brezza e la primavera frizza intorno al suo volto di donna come un vino. Tende l'orecchio. Niente. Ora basterebbe chiudere la porta. Basterebbe fare un passo. E Domenica, davanti al cinema Odeon. E fuori della gabbia. Leone non chiama. Lea comincia a chiudere la porta. Mamma! Far finta di niente? Fuggire? Lea va in camera di Leone. Ma Leone dorme. Leone non l'ha chiamata. Lea capisce. La sua sorte è segnata. I leoni sono dentro di lei. Morire? Forse. Ma in quella per Lea si compie il miracolo della rivelazione. E di colpo lo odio, grida. Felice di sapere. Illuminata dalla chiarezza, con un battito di palpebre cancella il rilegatore. E le luci del cinema Odeon si spengono nella camera di Leone, ove ella si mura, volontariamente, in eterno. Ma ora sa. Ora eserciterà il privilegio della finzione. Tutto parrà come prima, ma ha come diverso. Le cure, i pallori e le veglie. Finalmente la sua vita si appresta a diventare teatro. Lea guarda Leone che dorme e assapora la preda. Ora sa che è possibile rovesciare il gioco. E già freschi pensieri di segrete, finissime torture le allietano il viso. Curare un corpo e una mente, averli entrambi in incontestabile balia, in quel pomeriggio ventoso, nella stanza per sempre chiusa alla brezza, Lea approda lentamente alla grandezza. La guardiana del faro. Devo dire che in Italia si fa moltissima retorica sulla maternità, che è sicuramente un'esperienza straordinariamente importante, ma c'è una specie di obbligatorietà, no? Alla maternità, per cui non so, ci sono anche delle discriminazioni verso le donne che non hanno figli. E le donne che hanno figli, quando le vedo in televisione, le piglierei a schiaffi, perché in generale sono delle dive, sono delle persone molto famose, le quali parlano del loro bambino, pare che è la prima volta nel mondo, e pare che da quel momento sono disposte a farsi monache di clausura per stare con questo bambino. Qualcuna fa eccezione. Ambra Angiolini, io l'avevo sentita invece parlare della maternità in maniera molto realistica, con tutti i problemi che comporta, con tutto questo sacrificio che comporta. E tra l'altro Ambra mi è enormemente simpatica, mi piacerebbe molto parlarci. Forse la Capitaneria di Porto ci può mettere in contatto con Ambra? Qui Capitaneria di Porto, come richiesto l'attrice showgirl Ambra Angiolini è in collegamento. Barbara Alberti è autorizzata a parlarci. Pronto? Pronto, Ambra? Eccomi. Mi colpì molto questa tua intervista, appunto, in televisione, dove tu dicevi a un certo punto: i figli, non ci facciamo della retorica, è veramente un bel casino, anche per una coppia. Sì, Yolanda, io ce l'ho avuta a 26 anni, per cui, insomma, rispetto ai tempi che corrono, anche lì, insomma, credo di aver anticipato qualcosa. Però mi ricordo che ero in ospedale, a parte che mi guardavano come a dire: ma mamma non ti ha spiegato come non si fanno, il che mi offendeva moltissimo, perché io avevo scelto, per cui non è che è stato un errore, cioè non volevo avere un figlio. La cosa che mi innervosiva era che io scrivevo delle cose per niente romantiche in quel periodo, cioè un quadernino, mi ricordo, stata ricoverata varie volte, una gravidanza abbastanza faticosa. E io dicevo: perché usano tutti questi vezzeggiativi, questi aggettivi o superlativi assoluti? Che palle! Certe volte non trattasi di dolce attesa per niente, perché di dolce non ha nulla. C'è un disagio fisico, subbugli ormonali. Insomma, succedono delle cose molto curiose in gravidanza. E spesso, quando poi nasce tua figlia, almeno la prima notte, ti senti in colpa perché pensi: come mai non sono felice? Perché mi viene da piangere? E questo vale per tutte, non esiste una che si innamora la notte, la vedi piena di dolori, che dice che bello. Cioè, sì, è che bello sicuramente, è un miracolo, una roba che non si può descrivere, non ci sono aggettivi, però mi ricordo che ci guardavamo, io ho partorito in una stanza da sei in ospedale, ci guardavamo tutte ridendo, un po' piangendo, e dicevamo: ma che è? Cioè, che succederà? La paura, c'era il terrore di non farcela, c'era la sensazione di non essere adatte, tutti che ti spiegano come si fa, tu sei l'unica che non lo sa, cioè è tutto strano, no? Ti chiamano lì, cambiala, mi sentivo un'incapace. Poi adesso ci rido e penso che meno male che è andata così, però questa cosa mi piacerebbe portarla proprio negli ospedali, cioè delle esperienze umane che abbiano un sapore un po' più realistico. Senti Ambra, in un momento in cui tutte le libertà conquistate sono in forze e c'è stata una recrudescenza dovuta anche alla Chiesa, dovuta moltissimo alla Chiesa, dei pregiudizi contro gay, lesbiche e via dicendo, trans e via dicendo, mi parli per favore della tua militanza col circolo Mario Mieli in favore dei diritti degli omosessuali, ossia di tutti noi. Ma è stato un periodo molto bello in realtà, io ho cominciato ad avvicinarmi alla causa in generale ai 18 anni circa, un po' per motivi di amicizie molto vicine a me che mi raccontavano un mondo che mi sembrava incredibile, ragazzi che andavano via dai loro paesi di nascita perché lì non si poteva sapere che... Poi sono andata lì perché ho visto delle cose magnifiche, a parte i diritti dei gay, ma in questi contesti si fa tanto volontariato, si aiutano persone che hanno bisogno di alloggi a Roma, che devono condividere le case sempre perché lasciano le famiglie, e quindi mi sembrava, insomma, un posto molto giusto, ecco, dove operare, dove far succedere delle cose. La questione omosessuale mi sembra trattata in maniera sempre un po' così circense ovunque, quindi è molto difficile far passare un concetto quotidiano, cioè di persone che stanno insieme, che si vogliono bene, che si amano, che hanno un milione di difficoltà in tutto e per tutto. D'altronde, sai, lo presentano appunto come una cosa estranea, mentre i diritti degli omosessuali sono i nostri diritti. Tanto per cominciare, perché l'identità sessuale mica è una camicia di forza, potresti anche essere un viaggiatore del sesso e dell'amore, ma anche perché sono i nostri diritti. Se ci sono i diritti per gli omosessuali, ci sono i diritti per tutti. Quando andavamo, cercavamo comunque udienza dalle varie sezioni politiche, mi ricordo che portavamo fatti di cronaca importanti, cioè persone che non stando bene in un ospedale, sempre a fare il piagnisteo, però è un po' questa anche la realtà, no? Che va vista. non potevano accedere alle informazioni di salute, alle stanze per sapere, per informarsi, per capire. A un certo punto arrivavano queste famiglie che erano scomparse per anni e si mettevano tra i due individui che avevano condiviso una vita d'amore, di sofferenza, di divertimento e di tutto, e dicevano basta, quello lì non può entrare, non si deve far vedere. Non esiste vedere. Più. Cioè è una cosa molto pesante, dolorosa, e quindi no, questo dolore mi sembra quello che racconti tu, cioè comune a ogni tipo di essere umano, no? Che ma infatti anche per le coppie di fatto, sai, è uguale, che tu sia etero, omo, quel che ti pare, anche lì. Ma io infatti la cosa che ho sempre portato avanti nel mio caso è che per me e nel caso mio di Francesco, quello che non ha fatto la legge l'ha fatto Novella 2000. In che senso? No, spiegami bene questa cosa. Che nel vuol dire? Senso che per tutti siamo una coppia della quale ci si può affidare perché ci vedono sui giornali che stiamo insieme. Senti, ascolta, passiamo alle coccole. Cosa che hai detto tu, le coccole mi fanno ribrezzo. Sono un muro che impedisce di amarsi davvero. E qui ti riferisci a chi? A Gisela? Alla mia Gisellona, sì. Alla protagonista del film, dici. Del film di Ficarra e Picone? Che tratta l'amore. Anche, scusa, anche se amore non si vede. Tratta l'amore in maniera totale, racconta di tutta gente che guarda solo le spalle di chi è davanti, cioè non si gira mai a vedere da chi viene rincorso, e quindi continua a essere un'affannosa ricerca a una persona che forse non neanche ti ignora, semplicemente non ti vede perché a sua volta sta correndo dietro a un'altra. Ecco, il film è divertente e credo anche interessante per questa ragione. Gisella è una che delle coccole si è rotta le balle, cioè dice oh, basta, cioè basta, ma sai, quel malcontento che abbiamo un po'. Ogni tanto noi donne in coppia, quando stai insieme, l'uomo ti sta troppo dietro, ti coccola troppo, ti ricopre di regali, di cuori, d'amore, di lettere, sei bella, e tu vorresti uno che in realtà ti trattasse malissimo, ti facesse soffrire, che è esattamente quello dal quale scappavi prima di incontrare il tuo attuale compagno. Per cui Gisella racconta un po' quello che potrebbero raccontare milioni di persone e di donne che stanno con uomini che a un certo punto si innamorano, non si sa bene quando, perché non è subito. Sì, ma poi a un certo punto del loro stare insieme si innamorano tantissimo delle loro donne. E poi tu accennavi anche appunto questo fatto che appunto a volte è forma pura e nascondere indifferenza, amore, caro, fiorellino. Tutti quei aggettivi tremendi di coppie che in realtà non si parlano, a casa stanno allo sfascio totale, però ci tengono molto in queste situazioni un po' ufficiali a mostrare quanto si amano, e a me quella roba lì non mi fa abbastanza impressione. Ecco, casa mia è un disastro, ma in quel disastro io ci trovo un sacco di amore che in un altro contesto non troverei. Qui capitaneria di porto, interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. Puoi lasciare il tuo messaggio nella bottiglia all'828 1111 o alla mail laguardiana@radio24.it. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti. Realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti, a cura di Gloria Guerrera.